mi ricordo che si radiava d'alluminio. Era il silenzio. Quando si era venuto in ritirato, io da questi dici ai. Che tu Luca la sera mi dice che ora c'è un'anda. Su internet, sei il cazzo nella foto della vita reale. Tu pure ti sei scoglionato, se no qualcosa l'avresti fatto anche tu. Scoglionato un par di balle, scoglionato cosa? È una questione di dividere il tempo tra lavoro e hobby. Ma se non entri mai? Le poche volte l'ascolto, tutto a prove di eco, le cattedrali, prendo, spengo e mi calano le balle, ma proprio in terra. Ma se tu non vuoi sentire l'eco, fare discorsi come si deve, mi fai uno squillo e io entro sul 21. Bene va. Solo che tu non lo fai mai. Facciamo un po' di cognomi. Quindi se fai appassionato ormai di ecco, il microfono di ecco, io non spendo un cazzo per queste boiate, preferisco fare un po' di ex. E anch'io, quando c'è propagazione, ma un caricotto di ex, con muro. Aspetta. Antonello! Minchia, avevo lasciato Antonello in bianco. Chi sa cavalletta, chissà che non si serva. Se non è che si sta bevendo un goccio di birra. Sono che cazzo di canale siamo? Nero 15. Dai 5 siamo. Perché ci vede? Nero 15. Dovrebbe essere nel 5. Non dovrebbe, è il canale 5. Il canale dei camionari. E quindi stiamo osservando. Completo, non entra nessuno. Vuol dire che i nostri discorsi non sono graditi, cosa vuoi che ti dica a via? E sti gatti non ce ne mette. È quello che mi frega a me. Se ne saranno andati in qualche altro canale più che ci hanno letto, capito? Almeno possono fare soltanto con un euro, ma fa una cazzo bella in genere. Oh, già. ti faccio la differenza, a secondo dove sei, no? Tu macchina normale è nulla, non arrivi, ma c'è con quello, non hai segnale, però c'è sempre la radio. Ma vaffanculo, vaffanculo, Luca, guarda che c'è una radio forte, è pulita, è molto, molto comprensibile. In questa è una questione di esperienza, però a fare un po' di radioascolto di SVN come me Natalino e te ne rendi conto, ti rendi conto semplicemente quelli con wow vengono semplicemente eliminati a prescindere. Sì, no, lo so, secondo mica sono tutti uguali, la pensiamo tutti uguali. Che avanti, che vuoi entrare? Che avanti? Niente radio, avanti, va, Natale riprendi, cala. Uno che vuole aprire al letto. Aspetta che mi ricordi, non mi cala. Superi 500 fai dirette, altrimenti capita, però. I classico PL. Quelli che c'ho già sono in bachelite, ma già si trovano quelli in bachelite, normale. Ma li volevo anche, non io, per... capito. Per metterli sull'antenna nuova. Almeno due, cazzo, non si trovano, manco se... cazzo. Eppure chiedo in continente se ce li ha. Sì. Sono Natali, è roba scelta da nessuno, sono conduttori, come te lo pagano un cazzo, o fai salatura diretta, o usi un BNC. Su 213. Vedi, BNC su 213 è un po' difficile, e quindi... ti volevo consigliare molto connettore, però è un connettore un po', è un po' difficile da montare, anche perché non si adatta alle antenne. Va bene così. musica. Se lo prenda. Se lo prenda. Visto, visto. Vediamo se lo usa lui. E in infatti adesso sto cercando di fare memoria, chi è che me l'ha detto, perché se mi viene in mente di chiederglielo, a me non mi costa niente, cioè chiederglielo se lo sta usando. Padrone, se mi viene in mente, fammi sapere. La capa. A me ti alleggerisci un po' anche le gambe, perché sennò stare sempre tirando, via, la parola. Si conferma, fai che l'acqua da buio è molto a me, e quindi bisogna stare sempre in movimento. Ho fatto questi fondali, invece di fondare in casa, sono molto le gambe proprio a pizzi. L'amico mi sa che ci ha salutato, buona serata, buon tutto, ci si risente alle prossime, dai, riprendi per va. Ciao, Leo, se stai chiudendo, ciao, ci ascoltiamo alle prossime. Alle prossime. Sì, quindi lì in quelle zone, ritornando al discorso mio, sono tutti canti di Castetto. Comunque c'è poco movimento in giro, non c'è questo granché. Come poco movimento? Poco movimento di mezzi, si vedono anche i piazzali dei rifornitori che sono mezzo vuoti, prima che ci fosse questa batosta di questa crisi, i ristoranti sulla strada, rifornitori e compagnia bella erano sempre strapieni. Oggi mangiando lì a coso, mi sono fermato lì alla Tamoil, sei persone eravamo. Così pochi. Cappa, ogni tanto entrava qualcuno, qualche camionista lì al volo, paninozzo veloce, manco la macchina spegneva noi fuori del piazzale, e poi via. Poca cosa proprio. Cappa, come stanno? Dice che la crisi era l'anno scorso, invece quest'anno. Non ti do tutti i torti, mi Pierpa, perché un sacco di gente la sta pensando come hai detto tu in questo momento. E pare che abbiamo lavorato alla grande nel 2009 e le balestre stanno cominciando a piegarsi quest'anno, altro che scherzi. Da voi com'è? Il ritmo com'è? Ti posso dire che noi da come eravamo prima stiamo andando a un 45%. Addirittura. Cappa. Manca la tosse. Ma noi già stiamo andando meglio ancora. Sì, perché, oddio, quello per forza lo devi vendere, è come i generi alimentari, no? Per forza di cose ogni giorno lo devi prendere, però c'è un sacco di gente che invece di farsi il lavoretto e tutte quelle. A parte il fatto che l'edilizia è ferma, Pierpa, quindi fermandosi l'edilizia si fermano tutti. Ma il vostro settore, non lo so, tutti dentro. Va lo stesso finché ci sono i cantieri aperti. E da quando hanno bloccato i cantieri qui sta diventando ogni giorno sempre più difficile. Io ho fatto una specie di scoperta, che in confronto, cioè ho fatto la specie, io l'hanno fatta gli altri, ma stavo leggendo io una cosa, che in pratica ci sono nei confronti della vendita, no, ci sono più appartamenti sotto sequestro che con vendita reale, diciamo. Sequestro da parte dei finanziari e dello Stato di chi per fa? Da parte di banche e di finanziarie. Che a loro volta li mettono all'asta, ma in fin dei conti chi se li compra, se come si leggeva a l'economia si sta bloccando per bando, perché a parte il fatto che non stanno mettendo in condizione la gente di avere potere d'acquisto innanzitutto, no? E non avendo potere d'acquisto una persona di casa non esce per poter far girare la moneta, mi capisci? Sì, io lo capisco. Però se anche arrivano sequestra, e se non lasciano anche la possibilità, però si sono la prima di invece magari aggiustando un po' le cose e lasciando un po' più di respiro, è sempre pagato, però logicamente se la poi non paghi è il rischio che tu non devi ripigliare. Ma dico, se invece io sono la prima di fare la giallata, magari a passare, aggiustare un po' il tiro, questi beni non rimarrebbero a chi sono le dovere, e magari piano piano e le pagano lo stesso. Infatti è quello che dovrebbero fare, però non lo fanno perché, ma come hai detto tu giustamente poco fa, adesso bisogna vedere, una volta che queste società sono sature di questi beni mobili e immobili, e voglio vedere che cosa se ne fanno. Voglio vedere io quando vanno e ci riguardano, no? Sì, dice, li ho sequestrati, sono diventati di nuovo miei, però non riesci più a rivenderli. E beh, che cosa hai fatto? Hai un capitale che è fermo, e hai messo gente in mezzo alla strada, che magari con qualche dilazione in più poteva terminare di pagartela, allungando anche di 2-3 anni, ma anche 5 anni non sarebbe morto nessuno. Sì, dice, per esempio, questa... questa che recupera i crediti qua a Sassari, e non solo Sassari, dai, un po' dappertutto, adesso non mi viene in mente, questa c'è subentrata all'altra che c'era prima, in giro di 7 anni si ritrova dei beni che non ha, ma soltanto di meno non ha più liquidità neanche per poter pagare più i suoi dipendenti. Questa è una cosa veramente da farsi schifo da soli, perché se magari invece di strozzare, di mettere le strozzature, magari liberi un pochettino e dai un pochettino di libertà in più, tutta questa cosa non ce l'ha messo. Adesso stanno già piangendo miseria, che non hanno più beni, hanno soltanto beni e non hanno più liquidità. K di positivo. E quello l'avevo sentito, ma non è che per caso stai dicendo della BPS? Prima era BPS, adesso come si chiama? Ma com'è? Non me lo ricordo. Non mi ricordo manco io, se devo essere sincero. Io mi ricordavo BPS, per la BPS è uscita fuori da Contagino, è subentrata con la gente, si chiamava, era dirigente pure un giornale, ma non mi viene in mente. E comunque c'è la BPS, è uscita fuori 7 anni fa, ed è subentrata in questa, che adesso che ne recupero clienti. Non mi viene in mente, adesso se la parola mi viene in mente te lo dico. K di positivo. Falché, tu ci sei sempre? Sì, io sono qua, ascolto, ma ci sono. Allora, fatti sotto. Sì, così è. In effetti il discorso è più che positivo quello che state facendo tu e Pierpaolo. Ci hanno dato la possibilità al cliente di poter pagare. È ovvio che poi succede che non dando il tempo necessario per pagare, per fare questi sequestri, e poi si trovano con tutte queste case di ferme, chiuse e compagnia bella, non risolvono niente, capito? Tutto qua il discorso, non risolvono niente. Infatti, però poi c'è da dire anche che queste case sono anche sottovalutate, poi una volta che subentra il sequestro e poi vai a rivenderle. Stai tranquillo che sia all'asta o che riesci a venderle così a privato, e ci stai andando sempre di sotto, e ancora non se l'hanno messa in testa queste banche. È così, ma a parte il fatto che adesso non stanno dando neanche più finanziaria né in prestiti né niente, è ovvio che poi il cittadino da parte vi dirà che non è la televisione ragione quando alla televisione dicevano quel proverbio, fai figlio. Quale? Che la banca, quando c'è il sole ti dà l'ombrello, quando piove te lo prende. Infatti, è proprio così, è proprio così, Giuseppe. Stiamo diventando, guarda, una porcheria veramente, guarda. Guarda, io ti dico una cosa, magari sicuramente farò male a pensarla così, però il mio modestissimo punto di vista. Da un po' di tempo a questa parte sto tifando però alla grande chi riesce a farsi il colpo, naturalmente senza far male a nessuno, entri lì, mani in alto, senza far male a nessuno, prendi e te ne vai. Sì, bene, quindi ci stanno portando a fare cose che non siamo abituati a fare purtroppo, e arriveremo ancora, guarda, più stiamo andando e Tizio sta muovendo le cose, vedrai che arriveremo anche a quello, senz'altro si arriverà anche a quello, e poi dice lo Stato, cioè, ma quello è l'altro, quello è l'assassino, quello è delinquente. Ma le delinquenti li fate diventare voi, a noi ci fate diventare delinquenti. Non ci date lavoro, quando ce lo date vi prendete l'animaccia dei soldi, quando ci fanno l'assunzione, l'assicurazione, ci sono più tasse trattenute che denaro che ti danno lavorato. K di positivo, qualche, d'accordo con te al 100, avanti per qua. Permesso? Avanti. Buonasera, ciao Giuseppe, ciao Vera, ciao Falchetto e gli altri che non ho sentito, buonasera a tutti. K, riprendi Vera. K è positivo. Buonasera Mario, ben ascoltato. Avanti Giuseppe. K, buonasera Mario, ben sentito e cordialità come sempre. Avanti Falchetto. K, dai, ben sentito Mario, ben entrato. Riprenditela e poi c'è sognare. Cosa gara? Ah, ciao Luca, cappagatta. Vedi la differenza perché quando sono in casa mia e quando sono in casa degli altri? È così Mario, la differenza è una grande, confermato al 100. Mario ammassa il sistacco, si è compresso, cappa, non è chiaro la radio. Buonasera a tutti. Buonasera anche a te. Mario, cosa c'hai? Ciao Antonello, buonasera, me l'ha ascoltato anche a te. Adesso ti sei abbassato tutto. Mario, cappa la radio, non toccare mai chi viene, non toccare il vate. Sicuramente è una spaldata, si è sollevato da solo per la saturazione, abbassa, questo la dici il VAT, ma non va dalla sua parte lui. Allora, meglio va così. Ma non c'è radio. Così meglio va. Ma non c'è radio. Passo sei. Ma andava così, ma andava, non toccarla andava. Mario, mettici un goccetto d'acqua anche in quella manopola. Oh, non è questione di attacchi nella manopola. Allora, quando la accendi il cappello, non esce bene, lo alzi poco a poco, però questo lo scalda e inizia a pompare. Cappa di positivo, Mario. Allora tu fai come fa il buon Giuseppe. Prima di cena, lo metto, accendo, ascolto, faccio le orecchie pelose, in maniera che quando mi siedo per modulare lui è bello cardo. E vabbè, ma io molte volte tutto quel tempolino non ce l'ho. Davvero, molte volte tutto quel tempolino non ce l'ho, tanto è vero che sono venuto, ho detto tanto che mette a posto la situation, un davverino, ho detto io mi faccio due chiacchiere con gli amici, e niente. Cappa di positivo, sapete per caso come sono andate le votazioni? Ah, Ah, guarda, non so come sono andate, è la verità, non me ne accorgo nulla. Io fossi andato lì a dire, gli avrei dato il coltello e gli avrei detto scannatevi, tanto fate le lotte solo per le poltrone e per rubarvi i soldi di tutti noi italiani. Anche alla buia, alla fine, non vi sono né a fare pensioni, non vi sono né a far aiutare le disoccupate, non vi sono solamente di là, fanno le guerre, le dimissioni, che a noi gli altri, uno di se la pone nei pari pari, non se ne affrutta nulla, non vuole niente, non si ammazzano, non senti di qua. K di positivo, pura curiosità la mia, perché rientrando da Cagliari ero sintonizzato su Rai 1, no? E niente, stavano dicendo solo dell'affluenza che c'è stato un crollo madornale dell'affluenza alle urne, tutto lì, poi che vinca destra, sinistra, centro, su e giù, magari si ammazzano tutti quanti. Boh, tutti hanno spento. Chi è stato? Dimmi. Accendete la luce. Accendi la luce. Accesa. Spegna. Giuseppe va a dire la fatto se cosa? Se vuole cavare dal minuto? No, Giuseppe, queste cose non è qua. Ma cosa siete voi vedendo, Ghibi? No, io non lo so, la bebe, io non ho una persona, non lo vedete. Posso smontarne mezzo trasformatore oggi. Mezzo trasformatore? K di positivo, l'Alan l'HQ70 mi ha mollato e l'ho dovuto portare d'urgenza in sala operatore e sono riuscito a tirarlo fuori proprio per i capelli. E perché, cosa è successo? Niente, hai visto dal trasformatore vengono fuori quei tre fili che sembrano come tre pezzi di fil di ferro che vanno poi a infilarsi nel circuito stampato? Ebbè? Due di quelli andati, però dal circuito, come dissaldati da sotto. Però gli ho dovuto fare una modifica, infatti adesso sto uscendo con lui e vedo che sta reggendo, però me ne ha fatte scilloci perché lì ne devi proprio smontare tutto, come tocchi minimamente una cosa stai saldando una cosa e se ne dissaldano due. Così è, ci vuole un pochettino di pazienza, Sì, lo so, però come tocca il trasformatore e tutti quei cosi rigidi che ci sono, quei collegamenti rigidi, per quanto o con calma la fai la cosa, basta un attimino che ti appoggi o che sfiori con la mano, guarda, il circuito oppure il trasformatore che niente, è così. Infatti mi ha fatto, c'ero più di un'ora, Poi alla fine ne ho staccato tutto, gli ho fatto due modifiche e adesso sta rullando alla grande. Ok, un attimino di bianco che vuole avere. Questa belva lo sto facendo. Brecco. Hola. Buonasera. Buonasera, doppio room. Ben sentito da parte mia e cordialità. In compagnia di Antonio, Falchetto, Mario Manse e Bombolo. Avanti, Falchetto, per il doppio room. Salutone Gianni, è ben entrato, Ne hai sentito, ben entrato. Avanti Mario per il doppio room. Tocchi a te, dai. Cordialità. Troppo di Gianni. C'è Antonello e Mario. Ciao, doppio room, buonasera. È ben entrato, K. Mario Antonelli. Ciao, doppio room. Ciao Davide. Antonello, ma mi voglio a Davide. Ciao Antonello, mi sentito cordialità anche a te. Doppio root. Qua oggi tutto politica siete. Aggiungiti anche tu, Rum, facci sentire e fai sognare a tutti, dai. Politica, è un argomento che a me non piace, la politica. Va. Gianni, trovate quella cosa là. Scappa tu, se ti dico dov'era non c'è crisi. Dov'era? Nel dittale della forbice, dei mezzi. Scappa, ero sicuro, nero, che c'erano tutte. Vabbè, là, l'importante è che funziona tutto alla grande, sì. Lei è anche più intenso, luce intensa. Scappa, sicuramente come ti ho detto io. Trasportandolo è successo, può succedere che si indeboliscono, ci sono da tanti anni e succede quello. Vabbè, comunque l'importante è che sia andato tutto bene. Tanto, ma che è una dopo l'altra, strano, una dopo l'altra. Non lo so, ma può succedere, no. Ma comunque è importante che funziona tutto bene adesso, dai. Alla grande. Doppio room, stavi andando di saldatori anche tu? Io ero a cuore aperto. Sì, cappa, oggi a parte la politica eravamo di coso, di operazioni a cuore aperto a saldatori in mano. E cosa stavi combinando, Giuseppe? niente, mi ha mollato l'HQ70, il trasformatore. L'ho dovuto aprire e riprenderlo per i capelli, gli ho dovuto fare tre modifiche e tre nuove saldature, però vedo che sta funzionando alla grande, è acceso da più di un'ora adesso e sta rullando abbastanza bene, dai. La mia operazione era più semplice, però mi ha dato problemi il saldatore, non si attaccava al filo, gli ho messo anche la pasta a salsa, no, perché non me l'ha mai fatto il saldatore, come tu lo vedi, bagna tranquillamente. Adesso sarà perché io gli ho messo silicone nella lampadina perché risultava leggermente più stretta e nel buco ci giocava, allora per farli, per bloccarla gli ho messo del silicone, magari è caduto un po' nel filo, che ne so, è per quello che non saldava. Non è magari, Gianni, è proprio quello, al 100%, vai tranquillo. Avanti Mario. Ti ha pagato, però qui, momentaneamente, posso dire che è quasi tutto a posto. Devo finire alcune cose e poi tutti gli apparati sono a posto, là, in buon ordine. Ma a me è il periodo della sfiga, qua, qui. Può succedere di tutti i colori, scaldabagno bucato, una stanchezza allucinante pitturando e mi si buca anche lo scaldabagno a casa. Una sfiga, guarda. E appagata, purtroppo i mali quando si mettono di mezzo, vengono uno dietro l'altro. Salute e ci lasci qualcuno, già passa. Infatti. Ma si vecchia, ma zannuzia. Cava cava, Falchetto. Carissimo! Paga. Riprendo perché mi sta andando troppo, troppo strada. Me ne può andare, salutare tutta la ruota e tutte le mie ore. Ciao a tutti quanti. Cappa, ciao Falchè, ci sentiamo presto, dai. Avanti Antonè. Ciao Falchetto, alla prossima. Cappa Falchetto. Volevo fare una parola a Falchè, volevo vedere se passavi tu Dante o se passavo io. Chi? Di noi due, chi passa da Antonio secondo te? Già, io parlo a già. Al tre parlate tutti e due assieme. Uno, due, tre. Vai, barucole, barucole, barucole, barucole, punto teganti, barucole, punto teganti. Ehi, vai, passata la grave. Cappa. Siete buoni Mario, ma ti aiutano anzi. È spizzina già. A far che prove posso sempre gli amici. Lamentalmente è travolto Gianni. No, qua passa Mario, Mario che gruppa tutti. Guarda, ci manca poco che passa anche Giuseppe. Allora, Mario qui mentre stavate fuori. Passa Mario qua, Tu Giuseppe 9:40. Mi passa a tutti, tutti, tutti. K, ma io sono. Ma lo passo Giuseppe, lo passo Giuseppe, lo passo. Con 4 watt, che cosa posso pretendere? Lo passo Giuseppe. Pensa troppo così. Se abbassa non so, cosa succede. Se la abbassando magari arriva a 9.35, 9.30, se non mi ricordo. Cappa di positivo, io sono contento per tutti, contento per tutti. Vedi un pochino Luca, guardati bene lo smitter, vedi un pochino questo passaggio e se ti piace questa modulazione dell'Evo Giuseppe. Cappa, bella bella Giuseppe, ultima. Antonello, là, che sto andando via da qua. Buon prezzo. e buon tutto, dai, avanti no più rum. Più rum. Ciucci, ciacchi, cicche, ciacchi. Avanti Luca per Mario. Ah, ciao Mario, Rolfo, va. C'è coincido, no, voglio tra un po' stesso. Ma qui sono andato alle ore 2, a fare un culo al computer pure. Ma sono molto, molto prima. Sono anche riprovato stasera. E ciao. Questo sottolineo sarà più che danno, però. Con saltello. Ma proprio saltello. Andare, dai, facciamo riprendere la bella 1, che non è che sono usato, ma ti per fare, ciao. Ciao, Gary, ciao. E ciao Mario anche, dai, che ci sta chiudendo. K però dice che riprende da casa l'Antonello. Pronto, eri tu se non sbaglio, no? Forse ce l'ho qui. Sì. stavo cercando un calcagliere di quelle antenne. Sembra che stavo bene, non lo so. Eccolo qua, Pierpa. Io ho quello della Storm 27. Qui si dice, si consigliano le seguenti lunghezze. Vediamo un po'. È possibile che sia 8, 17, 27, 40, 59, 78? Ora c'è scritto 8-11, poi tra parentesi 273 centimetri. 273 è quella più corta, guarda quella più lunga. Allora 2,73 poi è 2377 centimetri, saranno 23 metri, così è. 23 metri è qualche cosa. Dicelo bene, 2,377, 23,77 centimetri. Capo è positivo, proprio così. Cava. Giusto per se lo trovo questo amico dargli una dritta, perché sinceramente lui me l'ha chiesto e gli ho detto guarda che io sono da un amico che questa antenna deve rispettare delle lunghezze di cavo. Sì, capo, se lui arriva il cavo per dire che basta 2 metri, dovrebbe essere 2,77 metri. Non 2,45 metri, non 2,50 metri, 2,77 metri. Poi c'è un'altra misura, quanto è, ricordami, 2 metri, cioè 530. Allora, la prima è 2,73 metri, la seconda è 5,46 metri. Ecco, 5,46 metri. E via dicendo, se siamo 5 metri deve essere 5 metri e 46, non può essere 5 metri, né 5 metri e 10, né 5 metri e 15, né 5 metri e 10, deve essere così. Quello, se tu rispetti quelle misure, l'antenna funziona al massimo della sua, di tutta la sua cosa che ha, se no non funziona bene. Non ti dà stazionarie, però non funziona bene. Quindi i 5,46 da PL a PL, diciamo, dai. Sì, sì, così. Perfetto, ottimo, ottimo, dai. Poi appena riesco a contattarlo, adesso me le scrivo in un foglio queste misure e me le tengo in barra. Appena lo sento gliele passo. Grazie per fare. Grazie per fare. No, poi niente, figurati. Ma ah, diciamo, sai, lo sono con tuo. Negativo, Oristano. Gabba. Chi c'era rimasto? Pomponio. Pomponio, ma Gianni, che fine ha fatto? Non lo so, Gianni, ci sei? Sì, io sono qua. E sei sparito? No, mi stava dicendo qualcosa, ma non era qui. È entrato Marco, si sta facendo un casino nero, perché c'era tanta vuota, si sente l'eco, sta gridando, facendo, mamma mia, non riesco a capire nulla. Ego! Ego! Non è bene. Gianni, lavora una bombetta di gas. Mamma mia. E adesso mi alzo la per accompagnare a Manuela. È caduto l'amico in moto, si è fatto male, andiamo a vedere cosa si è fatto. Però là, ehi, prendi una palla e un picco. Arrivi. Cavagà. Perché ti danno in missa dallo stop? E non va manco battere col 125. Fatta vedere i ciabinassi. Ti passano la mano su quella appena pitturato, va. Ah, oh, no, quella no. Sì, quello è un classico. Quello è un classico di tutti. Ah, oh, ma è una cosa. Vabbè, dai, vi lascio, raga. Pace per me, non ce ne sarà oggi. Va bene. Buon uscito allora, dai. Pierpa, quella cosa è certo, non ci vediamo, eh. Grazie. Io non ti preoccupare. Io ce l'avevo chiuso nel cofano della macchina, se avvisco la macchina a casa non ce l'ho. Ehi, vabbè, non c'è problema, quando ci troviamo qui, dai, non c'è problema, non c'è fretta. Ciao, ragazzi. Bene, va bene, allora stai andando via. Sì, dai, vi saluto, perché là lì sta fremendo, vai, quello che cosa si è fatto, e questo e quell'altro, dice che non ha rispettato la sta prendendo una parte di morte. Lo sto per far male, bisogna rispettarlo. Cazza, anche lo stoppino fa male. Cazza! Comunque non c'è problema Gianni, in magazzino c'è tutto, male picco. Il motto picco ci vuole, lo fa più grande. Cazza, se vi va io ho anche il paletto di prassino. Trovare, ti porto anche lo scavatore. Vabbè, a parte gli scherzi, qua lì sta già fremendo il coso di accompagnarla, che lui l'ha supplicata di andare. La casa la fa giù, c'è la sera circolare, c'è tutto, Ciao, ce la riascoltiamo, dai. Ciao Gianni, dai, ci sentiamo presto, dai. Ciao. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Ciao Gianni, buon proseguo di serata, buon tutto, alle prossime. Mario, certi altri amici, dai, Antonello e via dicendo, Alessio, eccetera, eccetera. Buonanotte a tutti, dai. Gianni, buonanotte, ci sentiamo, va bene. Oh, Pierpaolo. Sì, Stavo girando qui questo catalogo che ho qui sotto mano, dove tengo tutti i libretti delle antenne. Mi è venuto un colpo. Mi è venuto sotto mano, senti un po', Sigma Antenne Mantova 1. E quindi mi è venuta proprio in primo piano la mola di regolazione. Al rogo la devono mettere quella molla a caffè. Non è così male. Se ti ricordi caso mi ha fatto un rucato due dita. Due giorni pieni, caso, che se guarda, se mi avesse trovato adesso sarei sceso salito con le forbici per bottare su casa, l'avevo messa da casa a pezzo. Sì, basta fare la 16 centimetri da ripartire, non sbagli. Giuseppe, in Rapona. Lo so, però la storia non è così semplice. Non è così semplice, Pomponio. Sembrava semplice la cosa, ma non è così semplice. Dico bene, buon vela. Sì, non era così, no. La cosa era vista da un altro modo in quel momento. Ah, non lo so, comunque, Mario, c'è addirittura nella Mantova 2 sua, c'era già la striscia, e la bobina dove sta proprio l'anello sopra la striscia, era perfetta, l'abbiamo piazzata, sono sceso giù, controllato con un attimo il suo, 1-1, Marco si muove, si muove di 2, già preparata la fabbrica, quindi penso che anche la 5 da 1 c'è cioè la striscia rossa adesso, prima la striscia non esisteva, adesso invece stanno mettendo la striscia, quindi è molto più facile da bloccare, capito? D'accordo con te Pomponio, però i guai grossi sono iniziati la mattina quando ho allungato il palo per tirare sull'antenna. Stazionarie, a quanto erano per pa? Quasi a 3 così, 2.5. No pa, 2.5. Quindi su che ce n'è? Ascolta me, quando era l'antenna quanto ne avevi visto qua? Cioè quando era bassa? Quando era bassa praticamente 1-1. Allora se ne sollevata e te l'ha tutta stazionale c'era qualcosa che non andava senz'altro. O si è mollata la bobina non è stata bene come è creato su, se ne è scelta un pochettino, se no non può essere una cosa del genere, perché a me non mi è mai capitato un effetto simile alla verità. Piazzato da un tutto di uno che ho piazzato, tutto di 5 che ho piazzato, tutto di 2 che ho piazzato, quel problema non l'ho mai avuto. Una volta che io facevo la caratura interna, cioè anche a metro e mezzo dal tetto, prova che la busso 4-5 metri la cosa non cambiava. Certo. Certo, noi l'abbiamo dovuta scendere perché noi abbiamo dovuto mettere gli innesi, dei pali e tutte quelle cose lì. E tu figurati che poi quando l'abbiamo tirata su l'antenna, no? Che stava dando stazionarie, non ho dato retta, manco il gabbiano che è passato. A me di tutti questi problemi non è adatto. Ultimamente adesso la tubola Mario, noi prima abbiamo messo un palo ubico e l'antenna l'abbiamo piazzata in terra, addirittura sul tetto. Abbiamo messo i radiali, tutto lo stile come si chiama, l'abbiamo piazzata. E poi me l'ha passata a tirare su e col palo ubico ho preso un pochino di traslazza. Poi Mario e Giulio e la figlia hanno tirato, hanno messo il palo dritto e questi problemi a noi non ce li ha mai dato. Sinceramente, strano che a me non è capitato una cosa così. E manco a me Popò, perché quando l'ho piazzata la prima volta il segno l'ho lasciato sul segno rosso lì dalla casa e le stazionarie erano a 1-1, però io mai potevo pensare che come abbiamo tirato sull'antenna, solo avendo sfiorato minimamente la carica, che andasse appena appena a massa, no, sotto, tocco e non tocco e a malapena. Appena poi il giorno dopo siamo riusciti a scoprire che era quello il danno. Quindi avete infilato la bobina male in teoria, va? L'avete capitato, vabbè, c'è quell'attacco strano che adesso c'è gli attacchi di tubi di pubblici, sono 20 minuti da andare, perché le fascette che usavano da prima erano molto, ma molto più larghe, queste sono molto più fini. Molto più fini, poi l'indomani a mente fresca siamo riusciti a caparli piedi, perché se tu vedevi circo Liano Orfei number one senza nessun problema. E poi il gabbiano che adesso non passa più qui in queste coordinate, adesso sta passando sopra casa di Pierpaolo. Ma come già non c'era, non c'era capito Pierpaolo, se no avrei voluto vedere tra il palo. Avanti Mario. Popò, basso però io ti ascolto in queste coordinate. Va bene, che tu avevi promesso che venivi per dare una controllatina, invece niente. No, io sono attivi, non posso scegliere così. Non so, non ho mai il cognome di tuo suocero, io. Dai, tuo suocero, di a me. Del figlio di del socio di tuo figlio, non lo so il cognome, la verità, non posso andare lì e presentarmi così, così mi tirano da parte della zona. Quindi, gli ho detto anche la cosa, venire qui, ti a Davide, gli ho detto, guarda che baracchino è pronto, devi passare qui, e lì mi devi essere scesi tutti e tre, 5 minuti dopo aver sistemato l'antenna. Perché vedete, pensavo una gaffa L e installiamo l'antenna come l'ho installata io, attaccata al paletto con la ringhiera, e allora che l'antenna portando al limite una staffetta solo la fai anche tu, ma per fare una staffetta che si aggancia al paletto e la cosa va bene. Sì, va bene là, adesso se gli regalano quell'antenna là bisognerà salire sul tetto a vedere com'è. Si dovrebbe mettere tutto a posto. Kappa, andrà bene, riprendi Giuseppe. Kappa di positivo Mario. Con l'antenna a posto si risolvono tutti i mal di testa. Quindi se il buon Pomponio riesce a sistemargliela, qui già stai, vi sento bene alla grande, però se nelle tue stesse coordinate il suocero di tuo figlio qui dovrebbe arrivare molto meglio. Comunque già si sistema tutto strada facendo. Avanti a te Pierba. Sì, capo, riprendo io perché io me la chiudo che ho alcune cose da sistemare, dai, se no dopo mi si fa troppo tardi. Vi saluto tutti i circolari, vi auguro un buon lavoro per domani per chi lavora. E una buona notte, ci risentiamo tutto domani, dai. Mari positivo. Ciao Pierpa, buonanotte, buon tutto, ce la risentiamo presto e buon trabacco per domani, dai. Prima di passare il mic al buon Pomponio ne approfitto anch'io per salutarvi, perché anch'io adesso, come dice Mario, me ne vado a Dudù, perché dopo la discesa e la salita a Cagliari anch'io adesso vi voglio sdraiare e rilassarmi per bene, per essere bello in forma domattina, dai. Un saluto circolare a tutti, cordialità come sempre, buonanotte a tutti e naturalmente ne la chiudiamo con una bella stretta di mano. Ci sentiamo domani, signori, dai, buone cose a tutti voi e ci sentiamo presto. Ciao Giuseppe, buon 144 anche a te e ce la risentiamo tutta la prossima di domani. Se non mi giù di stavare, già accendo e vi ascolto in radio, si va alle 7. Altrimenti tutte le prossime, capo. Ciao, buonanotte Giuseppe, dai, ce la risentiamo tutta domani. Buonanotte. Avanti Pomponio. E poi devo chiedere una cosa a Mario. Avanti Pomponio per Giuseppe. Ciao Giuseppe, ciao Pierpaolo, ci sentiamo alle prossime. Statevi bene, buonanotte per te due. Se ci avesse male Vicente, se no per porta televisore. Che cazzo di confisca mi sta oggi? Cosa ascolti Mario adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 watt. Ti ascolto già, ma ti ascolto bassino come a radio, là. Qui c'è un attimino del piffero, mi non è che ci sia chissà che cosa e ancora già lo sai. Io? Dimmi, bombolo. Che antenna vuoi montare su? Non lo so, gliela devono regalare. Un'antenna l'hanno promessa, però la verità non mi hanno detto niente. Li voglio regalare pure il baracchino, però non mi hanno detto né che marca è, né l'antenna né il baracchino, cosa che io non so nulla. Momentaneamente stanno usando il multimodo di due, io, con l'antenna della macchina mia, la magnetica. Dimenticate di dire una cosa che mi ha detto un'altra persona lì, che c'è un palamato, va dai. E poi me lo sono ricordato stasera una cosa, infatti se tu alzi la testa, le antenne sono più piccole, non c'è più la manto, va bene. Perché praticamente faceva TVI, hai capito? Non si sapeva il perché, se stavano sempre rompendo le scatole in quel punto lì. Se tu alzi la testa, la vedi, c'è un'antenna fatta tutta condensatori e è piccola proprio per quel motivo lì. Quindi io me ne sono dimenticato di dirlo. Non lo so, io mi sono in giù, c'è sempre, quando mi passo al terrazzo vedo sempre la vecchia antenna, se non vado errato dovrebbe essere di coso quella, adesso non mi viene, l'antenna di coso, no. Di grande buffo, che ogni tanto che ci saluta. Luca Palipper, l'aveva tolta per quel motivo lì, hai capito? Aveva messo quella condensatoria, l'ha messo. Ma ci è una bomba, mi convinca. Non lo so, dai, comunque non è né una né l'altro, quella che vedo io è da qui. E quella del coso di lo spista a far da quel nome di nome, che poi lì abita ancora la madre. Luca Calipper, quell'ante. Prima c'era la casa tramata, ma non so come gente. No, già ci conosciamo abbastanza bene. Gappa, io lo conosco anche io, Luca Flipper, non c'è problema. Quella che volevo dire io, non c'è arrivato nessuno, ma non fa niente, non è un problema. Ma Gappa, non facciamo come scatole, sempre la gente bomba, allora ha comprato quella lì, aveva comprato. Ma sparava e cosa mai, ovvio, vabbè, qua mi arrivava a bomba, ma sono sceso dal departo, si ti va a tre parti con l'antenna di là, va presa, non so cosa cazzo, sul continente, e andava bene. Guarda che le antenne si sono messe nel punto giusto, vanno tutte bene, poi il discorso che a te ti arriva a bomba, te l'ho detto dall'altra volta, cioè le prove per vedere se un'antenna erona bene e riceve bene, la devi sentire in lontananza, non a sentirla sassa di nei punti, sassa di ottava, sassa di ositi, sassa di tisi, oppure la teloce con Santa Maria di Pisa. Le prove non si fanno così, le prove si fanno cercando di parlare con lo Siri, passare a Budesò o andando verso Olbia, che ci sono molti punti negativi, scendendo a Macomer. Le prove si fanno in lontananza, mica vicino, vicino giustamente ascolti tutti a bomba, capito? Non è che uno dice sì che provo come arrivo da Lucca al monte. Le prove lì non si fanno neanche perché si sa che al monte un tiro di schioppo, a meno che non c'è un'antenna precaria come ce l'ho io, allora è diverso, cioè come ce l'ho io, come ce l'ha Antonello in questo momento. Le prove si fanno a lunga gittata, parlare con tempi, vedi? Quelle lì sono le prove da fare per vedere se c'hai una buona ricezione, perché io se devo valutare un'antenna, la valuto in ricezione. Se uno mi parla da Biruli e non lo sento, vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché io a Cipolle lo ascolto da Biruli, dal Biruli di Biruli sotto Mancomere, io ascolto a Cipolle, capito? E più ascolto, vuol dire che l'antenna va bene, se non ascolto, ecco, questa antenna non serve. Comunque, c'è anche da dire che con questa qui rispetto alla Mantova, la Mantova 5, li sento più bassi, non molto ma un tantino più bassi, con la 5 li ascoltavo meglio, forse perché ero l'antenna già sessata, non lo so, però io mi ricordo che ultimamente con la 5 ascoltavo bene un po' tutti. È strano, dovrebbe avere addirittura qualche cosa in più, molto strano. E poi dico una cosa, Mario, tu c'hai, sei fortunato che sei tutto aperto, ma molte volte ci sono delle stranezze, molte volte sei chiuso, tu puoi avere una che ti pare di piante, ma gli dà la ragione. Bisogna considerare anche quello, anche. Ma comunque, ma già ti fai sentire lunga lontananza, poi arrivano tutti. Anche dentro città è importante a misurare il segnale, quando si mette il palazzo, lì si sente veramente la differenza, e questo lo posso confermare. Chi arriva più forte e chi arriva più debole. Se uno è sepolto in mezzo ai palazzi, giustamente esce con un po' quel piede di difficoltà, ma se uno è aperto, come posso essere da casa mia a casa tua, o come da casa mia a casa di Giuseppe, da casa mia, a casa di Gianni da Perù, le antenne si vedono, per forza arrivi in porta. Bello è quando stai provando, se tu ti ricordi, che tuo padre è rimasto meravigliato, quando vi ha accompagnato Santa Maria Coghinas, mi dice vai se riesci a parlare qui, stai facendo miracoli, e vi ho accompagnato sino a Santa Maria Coghinas, tutto qua, niente di particolare. Ma io so che ci trovavo lì, da quella la Roma, e alla grande, e dire con l'altra vecchia. Con questa prima o poi riproveremo. Quando ci sarà l'occasione ci riproviamo, ma no, perché voglio sapere se andando avanti, siccome l'antenna, tu lo sai che qualche volta appena piazzata non irradia bene perché non c'ha il suo assestamento, magari non fa il contatto bene, e niente, tu chi vuoi che lo aiuta un po', poi anche quella specie di ossido che fa, che le attende i pezzi, sembra che si sali l'uno o l'altro. E così che niente, adesso bisognerà vedere se anche con questa arrivo in quelle coordinate lì, tutto qua, niente di particolare. Ma secondo me siamo un po' meglio di più, secondo me, a mio parere. Il diavolo felice, non ci arriva nessuno, arrivi 9.15, in qualche punto 9.20 pure. Me ne sto accorgendo, perché confrontando il segnale, prima eri 9, appena così di 9. Adesso si prossimi, in quel punto lì, salendo su da Pomponio, dalla moto, arrivi così mi arrivi. Già va bene, sono contento che vi arrivo forte, K, no, ma io ho visto che l'altro giorno stavo parlando con l'Alghero e mi sentivano bene anche tra l'Alghero, no? Senza tante pretese, però l'importante è arrivarci, K. Secondo me stai erogando forte, a mio parere. L'altro giorno tu dicevi che una certa persona ti arrivava bassa, ma quella persona lì, il giocattolino, non ce l'aveva in quel momento lì, è logico che tu lo ricevevi basso, hai capito? Tutto qua è il discorso, io non ti ho detto niente, però te lo sto dicendo adesso. Gappa, ma comunque non ci sono problemi. Quando uno si sente, si fa la chiacchierata e l'altro risponde, vuol dire che va tutto bene. Davvero. Gappa di positivo. Ma buono, tu. Dai, io adesso purtroppo ti devo salutare perché è pronto a caricare le batterie. E niente. Ce la risentiamo tutte le prossime, dai, anche perché è ancora da finire poi. Si fa tardi, sicuramente siete tutti andata. D'accordo così, buonanotte a tutti, buon 144. E ce la sentiamo tutte le prossime. Io chiudo perché vado a caricare. Ciao! Ciao Mario, dai, ce la risentiamo. Dammi un segnale, veloce Mario, a vedere come ti sto arrivando lì. Ieri mi ha detto 7, ma non lo so. Vabbè dai, ciao, buonanotte. Dimmi il segnale, papà. Gappa, comunque al mio ballettino segna Santiago sì. Radio 64, bella pulita e russo. Però tieni presente che io sto modulando con un attimino messo sul terrazzino, così che come esco basso, ricevo anche basso, tutto qua. D'accordo, alle prossime, buon proseguo e buon tutto. Ciao Mario, è molto strano comunque perché ti ho di fronte. Va bene, ciao, ci risentiamo.